Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo dell'audizione del presidente della Consob Giuseppe Vegas in commissione bicamerale sulle banche, audizione che sta, come avete sentito, generando anche tutto un botto di risposte di carattere politico. Chiaramente Vegas è la parte, diciamo, che riguarda anche il botta risposta politico, ha a che fare sul ruolo dell'allora ministro Boschi e in merito alla vicenda della Popolare di Etruria. Vegas ha confermato di aver incontrato il ministro Boschi, di aver parlato della vicenda Banca Etruria. C'era preoccupazione da parte del ministro per una possibile acquisizione di Banca Etruria da parte della Popolare di Vicenza, in quanto l'operazione poteva essere negativa per il settore orofo di Arezzo, ma non ho trovato nessun elemento strano, in quanto non trovo strano che un politico si occupi del suo collegio. E poi ha aggiunto Vegas, dal ministro Boschi non c'è stata pressione, ma solo l'esposizione di un fatto. Siamo stati in un ristorante a pranzo, poi l'ho portato a visitare la Consob. Mi sembra una cosa normalissima che un parlamentare si interessi appunto della sua constituency, vuol dire collegio elettorale. Non c'è stata pressione, ma esposizione di un fatto. È chiaro che questo poi si presta, lo dico anche se questo non è un programma che si occupa di politica, in senso stretto si presta a diverse interpretazioni, perché da un lato l'attuale sottosegretario, allora ministro Boschi, ha detto anche oggi ricevo attacchi dalle opposizioni sulla vicenda Banca Etruria, confermo quanto detto in Parlamento 2 anni fa, non ho chi mi chiede le dimissioni perché avrei mentito in Parlamento, deve dirmi in quale punto. Ho incontrato più volte il presidente della Consob in varie sedi, ma mai poi mai ho fatto pressioni. E da questo punto di vista poi abbiamo invece altre reazioni, perché Roberto Speranza dice il quadro che emerge dalle dichiarazioni di Vegas non può essere ignorato quando un membro del governo mente al Parlamento, non c'è altra strada che le dimissioni. Questo è Speranza. Meloni, pretendiamo le dimissioni della Boschi, perché ha mentito in Parlamento dicendo di non essere mai interessata a Banca Etruria, e via così. E tra l'altro Vegas è intervenuto non solo sulla vicenda, chiaramente, Boschi, Banca Etruria, ma anche sul ruolo della Banca d'Italia, e per quello che riguarda Banca Etruria ha detto che nel 2012-2013 ha omesso le indicazioni di Banca d'Italia nel operare e sollecitare il pubblico risparmio attraverso offerte. Ha omesso di dare la reale situazione di criticità in cui si trovava. Le operazioni per complessivi 320 milioni di euro, tra cui anche le obbligazioni strutturate, sono state effettuate tacendo le rilevanti criticità e anomalie di cui Etruria aveva già avuto piena consapevolezza anche a seguito delle indicazioni ricevute da Banca d'Italia già a partire dal luglio del 2012. Di questo parleremo. Volete la mia opinione? Allora, guardate, qui si gioca sul dibattito politico. Da un certo punto di vista è normale che incontrando il presidente della Consob parli delle vicende che riguardano le banche. Lì bisogna capire poi l'opportunità politica, è su questo che c'è lo scontro e lo scontro politico. Non, di per sé stesso il fatto che il presidente della Consob parli della situazione e delle criticità del mondo bancario non è né una novità né una stranezza, anche incontrando i politici come può farlo incontrando i giornalisti. Però la Boschi non era ministro dell'economia, il papà era già vicepresidente, per carità, però il punto politico resta, perché chiaramente qui poi si va sul giudizio politico, sull'opportunità o meno. Non è strano che un presidente della Consob parli della situazione delle banche del paese. Visto che avremo un approfondimento apposito, toccheremo anche quanto dichiarato ieri da Zonin, sempre in audizione alla commissione bicamerale, e cioè il fatto che, insomma, anche loro hanno perso, anche la famiglia ha perso dei soldi, abbiamo perso cifre consistenti, abbiamo sempre creduto nella solidità e capacità di crescita della banca. I motivi del crack della Popolare di Vicenza sono molti, i principali 10 anni della crisi economica. Il primo che aveva fiducia nella banca era sottoscritto e la mia famiglia ha perso anche dei soldi. E poi cita il caso NPL delle aziende in crisi, non ho mai ricevuto ordini dalla Banca di Italia. E poi, come abbiamo detto anche ieri, insomma, ha negato di aver avuto mai il ruolo operativo nelle scelte della banca. Su questo, insomma, uno può farsi l'opinione che vuole, vedremo. C'è un'inchiesta anche della magistratura su questo. Ho difficoltà a immaginare che Zonin proprio non abbia mai avuto un ruolo operativo nella banca, però andiamo con ordine con i fatti. Intanto il numero per i vostri sms e whatsapp 349 238 6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Le altre notizie di cui ci occuperemo, oltre alle audizioni in commissione bicamerale, Mario Draghi che dice l'economia sta crescendo dopo che ieri sera la Fed ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli fra l'1,25 e l'1,5%. Dicevo, oggi ha mantenuto i tassi a zero, la Bank of England dal canto suo l'ha mantenuto allo 0,5%. Faccio notare che la banca centrale cinese ha rialzato invece i tassi di uno 0,25%, portandoli tra l'1,25 e l'1,5%. Per quello che riguarda l'Europa e quindi Mario Draghi, il quantitative easing continuerà al ritmo ridotto di 30 miliardi di titoli da acquistare al mese da gennaio 2018, da gennaio fino a settembre 2018, 30 miliardi sono la metà di quanto sta acquistando adesso la Banca Centrale Europea come titoli di Stato emessi. E ha detto Draghi, la crescita è forte, l'inflazione risalirà. Ha alzato la BCE, la stima per l'inflazione nel 2018 all'1,4%, ancora distante però dall'obiettivo del 2% che la BCE ha come obiettivo ottimale, dell'inflazione ottimale, per poi tornare a alzare i tassi di interesse e ridurre o terminare il quantitative easing. L'area euro quest'anno crescerà del 2,4%. E ha detto Draghi, vi potrebbero essere sorprese, possibili sorprese al rialzo, cioè sorprese positive. Quantitative easing è il termine corretto, io cerco di spiegarlo, lo dico a chi mi dice perché non lo pronuncia in inglese. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp. Infine ci occuperemo anche di due notizie. Una positiva riguarda l'Italia, riguarda la vicenda Alcoa di Porto Vesme, lo stabilimento Alcoa di Porto Vesme. Entro il 15 febbraio ci sarà la cessione alla Svizzera Cider Alloys, e lo ha comunicato il segretario generale della FIM CISD Marco Bentivogli, aggiungendo: è la vittoria di chi non ha smesso di combattere per il lavoro. Vi è stata una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati e il ministro Calenda. Dovrebbe così chiudersi una vicenda che va avanti da 4 anni, ce ne siamo occupati anche con viaggi e inchieste di Radio 24, 4 anni di limbo per i lavoratori dell'Alcoa, che sono 420 come dipendenti diretti e 350 per quello che riguarda gli appalti. E Calenda ha twittato: il 22 sarò a Porto Vesme. Poi ha scritto: un operaio del Sulcis, la pizza la porto io. Dico, si chiude una vicenda delicatissima, e da quello che abbiamo visto anche nelle parole del sindacato che ha gestito la cosa in principale modo, quindi la CISD FIM, dovrebbe chiudersi in maniera positiva. Se ce la facciamo, dico se ce la facciamo, ci occupiamo anche di questa mega acquisizione in parte già annunciata, Disney, che ha raggiunto l'accordo per comprare alcuni asset della 21st Century Fox. E quindi Disney pagherà 52 miliardi e mezzo di dollari con un concambio di 0,27 azioni Disney per ogni azione Fox, e va un po' a smembrare l'impero mediatico di Rupert Murdoch, e quindi parleremo anche di questo, se ce la facciamo. Andiamo avanti con le notizie in breve. Oh. Come sempre la borsa in apertura, meno 0,56% Milano, come Parigi, meno 0,56%, Francoforte, meno 0,22%, Londra, meno 0,40%, Dow Jones invariato. Sul fronte dei titoli, tra quelli che crescono di più e quelli che crescono di meno nel listino principale, segnalo Recordati meno 1,70, Intesa San Paolo meno 1,70, Saipem meno 1,5 come Biper Banca, Telecom Italia meno 1,5 come Ubi Banca, Campari meno 1,30%, Yux Net A Porter bene più 1,77%, Mediolanum più 1,70%, Luxottica più 1%, Generali più 0,90%, Unipol più 0,70% come Fineco Bank e Unipol Sai. Vediamo le notizie in breve. L'impegno preso da Facebook di pagare le tasse in Italia è un gesto che va nella direzione giusta ed è la dimostrazione del fatto che alcune imprese del digitale cominciano ad essere coscienti che non pagano abbastanza tasse perché le regole fiscali non sono state adattate alla fiscalità del mondo digitale, l'ho detto il commissario per gli affari economico e monetari europeo Pier Moscovici, questo sulla vicenda di Facebook che pur fatturando, secondo stime di mercato in Italia, 700 milioni di euro, dopo la triangolazione con l'Irlanda fa figurare bilancio ricavi per appena 9 milioni di euro, con il risultato che l'anno scorso ha pagato tasse per 260 mila euro. Se fosse applicata la tassa del 6% sui ricavi, noi incasseremmo almeno 42 milioni di euro. La vicenda Ryanair. Oggi, insomma, nonostante O'Leary dica, faccia finta di non ascoltare, ma insomma, ha detto oggi il presidente dell'autorità di garanzia dello sciopero, di nuovo è tornato il garante, Passarelli, ha detto: se Ryanair metterà in atto le minacce contenute nella lettera che hanno toni di inizio Novecento, potrà incorrere nelle sanzioni per condotta antisindacale. Noi possiamo sanzionare quei comportamenti aziendali che possono determinare l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto e irrogare sanzioni sino a 50.000 euro raddoppiabili. Sì, non è che la cifra di 50.000 euro sia così preoccupante per Ryanair, ma intanto è un segnale e devo dire, abbiamo già fatto l'approfondimento ieri, c'è molta confusione nella testa di Ryanair anche dopo quanto veniva spiegato molto bene ieri, deciso a inizio anno sul dove devi considerare attivo il contratto di lavoro e non quindi come faceva prima Ryanair. È una sentenza europea su una causa belga, tra l'altro, e la Corte di Giustizia europea, che ha stabilito che il contratto di lavoro che si applica è quello del paese in cui il pilota o l'assistente di volo opera prevalentemente, cioè non puoi, perché va un giorno al mese a Dublino, dire che il contratto di lavoro che si occupa è quello irlandese. Allora, vedo molti messaggi sulla vicenda Boschi, messaggi di carattere politico, ne parliamo fra circa un quarto d'ora, però tutto nasce da questo passaggio, diciamo, del presidente uscente della Consob Giuseppe Vegas in audizione in commissione banche, l'audizione appunto alla commissione bicamerale sulle banche, in merito al fatto se avesse mai parlato della vicenda popolare dell'Etruria con il ministro Boschi. Su Banca Etruria, sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da Veneto da Banca di Vicenza, e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Io non potevo dire niente perché non è competenza di Consob intervenire sulle scelte di aggregazione delle banche, quindi generico, nel senso che mi ha illustrato la situazione, io ho detto che la Consob non era competente, punto. Quindi non si è andato su una cosa specifica. Se vuole contesto, il ministro chiese di vedermi, venne a Milano, mi parlò dell'argomento e tornò a Roma. È Ecco perché dico che il tema è di opportunità e quindi di valutazione politica, nel senso che, come ha detto Vegas, la Consob tra l'altro non può neanche intervenire su vicende di aggregazione, interviene solo la Banca d'Italia su questo. L'opportunità politica, per non tanto perché non sia corretto, in questo ha ragione Vegas, che un ministro, un politico si occupi del suo collegio elettorale. Il problema è sempre che il papà della Boschi era vicepresidente di Etruria, quindi bisogna distinguere due cose. Non è strano, se vogliamo fare persone, insomma, non le mezze vergini, non è strano che un politico chieda, così come un politico del Veneto poteva chiedere informazioni su quanto grave fosse la situazione di Veneto Banca o di Popolare di Vicenza, visto poi le ripercussioni sul territorio. Il problema è l'opportunità politica. Ripeto, Vegas ha detto di non avere mai ricevuto pressioni dall'allora ministro Boschi su questo e di avere ritenuto una cosa normalissima che un parlamentare si interessi della sua constituency, del suo collegio sindacale. Non c'è stata pressione, ma appunto avete sentito l'esposizione di un fatto. Partiamo però dalla Banca Centrale Europea, appunto tassi invariati allo zero, mentre sono stati rialzati ieri dalla Banca Centrale Americana di un quarto di punto, tra l'1,25 e l'1,5%, previsti tre rialzi nel 2018 negli Stati Uniti, la Yellen salutando praticamente come presidente della Federal Reserve ha detto è molto difficile che venga centrato l'obiettivo della crescita del 4%, anche se secondo Donald Trump il taglio delle tasse porterà il PIL americano un più 4%. La Yellen è stata abbastanza critica con la politica, diciamo con la Trump economy, se vogliamo chiamarla così. Ha detto il debito americano mi preoccupa e la riforma delle tasse andrà ad aumentare il debito. Il taglio delle tasse può aiutare la crescita, ma c'è una considerevole incertezza sull'impatto. Sui Bitcoin la Yellen ha detto ieri in serata è un asset molto speculativo, la criptovaluta è una fonte non stabile di valore. E ancora, poi ha salutato dicendo che si occuperà del passaggio di consegne con chi prenderà il suo posto, e quindi Jerome Powell. Anche la Banca Centrale Cinese oggi in qualche modo ha risposto al rialzo di un quarto di punto statunitense, alzando anche lei di un quarto di punto il tasso di interesse. La BCE li ha lasciati invariati, però ha comunicato che da gennaio il quantitative easing continuerà a un ritmo ridotto di 30 miliardi al mese. Lo ha fatto in questo passaggio Mario Draghi in conferenza stampa. We decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento e ci attendiamo che rimangano ai livelli attuali per un lungo periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte del nostro programma di acquisto di titoli. Per quanto riguarda le misure di politica monetaria non convenzionale, confermiamo che dal gennaio 2018 intendiamo continuare a effettuare acquisti di attività nette con un ritmo mensile di 30 miliardi di euro. Questo fino alla fine di settembre 2018 o oltre se necessario, e in ogni caso fino a quando il Consiglio direttivo non vedrà un andamento della dinamica dei prezzi coerente con il suo obiettivo di inflazione. In the path of inflation consistent with its inflation aim. Alessandro Merli, corrispondente Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera a voi. Eccoti Alessandro. Allora, in realtà era atteso che il quantitative easing si riducesse a gennaio. Noi restiamo l'area che ancora non solo tiene i tassi più bassi a questo punto, ma che non ha intenzione di muoverli. Le decisioni erano state prese a ottobre. Draghi ha detto non è che da qui a un mese, a un mese fa le cose siano cambiate così tanto, però è indubbio che la BCE oggi ha presentato le nuove previsioni sull'economia, sulla crescita e sull'inflazione, e c'è un forte ritocco a rialzo soprattutto per quello che riguarda la crescita. Però Draghi ha detto il nostro mandato non è di assicurare una forte crescita o un aumento dell'occupazione, ma di portare l'inflazione vicina al 2%, e per farlo c'è bisogno ancora di uno stimolo di politica monetaria che continui, perché questo movimento di inflazione da solo non si sostiene. Ha anche spiegato che la ripresa o l'espansione nell'Eurozona e l'espansione degli Stati Uniti sono in due stadi diversi e che quindi mentre la Fed è giustificata a fare quello che ha fatto, lui ritiene che sia giustificata la BCE a mantenere i tassi fermi, sostanzialmente tutta la politica monetaria invariata. Allora, questo è un punto. Poi c'è l'altro fronte sulla crescita del PIL e la crescita dell'inflazione, ma lo affrontiamo dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Risponderò anche ad alcuni ascoltatori sulla vicenda Boschi, Etruria e dichiarazioni di Vegas. Non si tratta di difendere nessuno, ma di distinguere tra opportunità politica e invece poi valutazione concreta se sia normale o non normale che uno chieda a un presidente della Consob, esprima diciamo preoccupazione, come ha detto Vegas, non pressioni. Sono due valutazioni completamente diverse. Comunque ne parliamo dopo, perché abbiamo anche un approfondimento dopo il meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. To let myself 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Abbiate un po' di pazienza sulla vicenda Boschi e l'audizione di Vegas. Stiamo recuperando anche l'audio del suo intervento in Parlamento, visto che il sottosegretario, allora ministro, dice che non ha detto nulla di diverso da quanto, non è emerso nulla di diverso da quanto lei già riferì in Parlamento. Quindi andiamo a prendere l'audio originale. Non sto spaccando il capello in quattro. Ripeto, la valutazione sull'opportunità politica, se candidarsi, non candidarsi, se era opportuno o non opportuno, è una valutazione politica. Se uno dice, ma è strano che uno parli di una banca o di una situazione di crisi sul territorio con il presidente della Consob, no, non è strano, come lo può fare con il governatore, cioè se sei un ministro, se sei un politico, ti interessa il territorio. Sono le parole di Vegas, non le parole mie, che ha detto non ho ricevuto pressione, e mi sembra una cosa normalissima che un parlamentare si interessi della sua constituency. Adesso stiamo recuperando anche l'audio, così ascolteremo cosa disse l'allora ministro Boschi in audizione parlamentare. Vorrei chiudere però con Alessandro Melli, con l'intervento oggi di Mario Draghi per quello che riguarda la parte sul futuro, e quindi inflazione che dovrebbe crescere l'anno prossimo all'1,4% e qualche possibile sorpresa positiva sulla crescita europea. These projections foresee annual rate GDP increasing by 2.4 in 2017. Le nostre proiezioni prevedono un andamento del PIL reale annuo del 2,4% nel 2017, del 2,3% nel 2018, dell'1,9% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. Rispetto alle previsioni macroeconomiche diffuse nel settembre 2017, la crescita del PIL è stata rivista al rialzo in modo sostanziale. I rischi che gravano sulla ripresa dell'area euro rimangono sostanzialmente equilibrati. Da un lato, il forte impulso congiunturale sostenuto da continui sviluppi positivi degli indicatori di fiducia potrebbe portare a ulteriori sorprese positive nel breve termine. D'altro canto, i rischi al ribasso continuano a riguardare principalmente fattori globali e sviluppi nei mercati dei cambi. Downside risks continue to relate primarily to global factors and developments in foreign exchange markets. Allora, Alessandro Melli, le sorprese positive sulla crescita europea e l'inflazione, che mi sembra distante dall'obiettivo. Il rialzo delle previsioni sulla crescita era atteso, forse non in questa misura, nel senso che soprattutto per il 2018 c'è un ritocco di un mezzo punto percentuale piuttosto significativo, ma sono state alzate le previsioni di crescita anche per il 2017 e anche per il 2019, quindi nel complesso del triennio c'è un rialzo delle previsioni di crescita abbastanza sostanzioso. Per quello che riguarda l'inflazione la cosa è molto più modesta, in un certo senso, nel senso che restano uguali per quest'anno, vengono leggermente ritoccate al rialzo per l'anno prossimo e restano uguali all'1,5 per il 2019. La novità delle previsioni di oggi è che per la prima volta lo staff della BCE, gli economisti della BCE, fanno una previsione sul 2020, quindi il cosiddetto medio termine, e indicano che la inflazione dovrebbe arrivare all'1,7%. Qualcuno ha chiesto a Draghi: ma allora finalmente vuol dire che siete arrivati al vostro obiettivo di essere sotto ma vicini al 2%? E Draghi ha fatto capire che l'1,7 non è abbastanza, anche perché in realtà l'inflazione cosiddetta di base, cioè quella depurata dagli elementi più volatili che sono il petrolio e gli alimentari, in realtà è stata ritoccata leggermente al ribasso, e questo perché per ora i salari non rispondono al fatto che non solo la crescita è più forte, ma anche il mercato del lavoro è molto migliorato, nel senso che c'è quello che diciamo da tempo, c'è un recupero del PIL, un recupero anche del mercato del lavoro anche in Italia. Il problema è che siccome è un recupero con salari anche in Germania tenuti bassi, mettiamola così, e poi questo ha avuto una ripercussione secondo molti osservatori anche sulle elezioni tedesche, oltre che sulle elezioni di altri paesi, la pressione sui salari, la conseguenza è che tu hai un aumento del PIL certificato netto innegabile in tutta l'area euro, hai anche un aumento certificato netto innegabile dell'occupazione, non hai un aumento dei consumi o ce l'hai molto marginale, e quindi non hai nessuna spinta, pressione sui prezzi al consumo, perché è un'occupazione che non sta vedendo, una ripresa economica non sta vedendo un aumento dei salari. Quindi se il salario non aumenta, tu non spendi di più, i prezzi restano più o meno fermi, l'inflazione non si muove. Grazie anche a Alessandro Melli, stavo per dire a Mario Draghi, ormai vi associo in quanto corrispondente Sole 24 Ore da Francoforte. Allora, con gioia di molti ascoltatori, andiamo a occuparci dell'altra grossa notizia di oggi, e mi riferisco all'audizione del presidente della Consob Giuseppe Vegas, presidente uscente, in commissione bicamerale. Ha parlato anche della Banca d'Italia, dei rapporti con la Banca d'Italia, Vegas. In realtà tutta l'attenzione, a partire da quella dello scontro politico, è sulle dichiarazioni che ha fatto Vegas in merito al ruolo o non ruolo dell'allora ministro Boschi e interessamento o non interessamento dell'allora ministro Boschi. Vi arriviamo fra un attimo, volevo far ascoltare però prima una cosa sulla gestione di Banca Etruria, perché il vice direttore generale della Consob Giuseppe D'Agostino ha detto: Banca d'Etruria ha operato e ha emesso ha collocato strumenti e prodotti ai risparmiatori tacendo le rilevanti criticità e anomalie di cui Etruria aveva avuto piena consapevolezza anche a seguito delle indicazioni ricevute da Banca d'Italia già dal luglio 2012. Le carenze informative riscontrate nella documentazione d'offerta, unitamente alla mancata rappresentazione da un lato della persistenza nel tempo delle criticità riscontrate da Banca Italia a fronte di una sostanziale inerzia dell'organo amministrativo e dall'altro del possibile rischio dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 70 e seguenti del TUB, che nel testo all'epoca vigente disciplinavano l'istituto dell'amministrazione straordinaria, dei provvedimenti straordinari della liquidazione cotto amministrativo, ove BPL non avesse dato corso a integrazione in un gruppo di adeguato standing, non aveva messo il potenziale investitore in condizione di valutare il rilevante rischio di possibili crisi dell'emittente. E allora, il passaggio invece che di Vegas, presidente della Consob, che ha confermato l'incontro, di aver parlato con l'allora ministro Boschi della Banca d'Etruria, c'era preoccupazione per un'eventuale acquisizione da parte della Banca Popolare di Vicenza. Su Banca Etruria, sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione perché, ad avviso del ministro, ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da Banca di Vicenza, e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Io non potevo dire niente perché non è competenza di Consob intervenire sulle scelte di aggregazione delle banche, quindi generico, nel senso che mi ha illustrato la situazione, io ho detto che la Consob non era competente, punto. Quindi non si è andato su una cosa specifica. Se vuole il contesto, il ministro chiese di vedermi, venne a Milano, mi parlò dell'argomento e torno a Roma. Poi Vegas ha chiarito che si incontrarono in un ristorante, poi ha fatto visitare la Consob e ha aggiunto, mi sembra una cosa normalissima, che un parlamentare si interessi della sua constituency, del suo collegio elettorale. Non c'è stata pressione, ma l'esposizione di un fatto. E la Boschi in un tweet ha detto: non ho mentito, non ho mai fatto pressioni. Speranza chiede le dimissioni, così come le chiede la Meloni, i 5 Stelle e tutta l'opposizione. Allora, possiamo riascoltare, era il 18 dicembre del 2015, la Boschi allora era ministro del governo Renzi, interviene in Parlamento per rispondere appunto e chiarire la sua posizione in merito al suo interessamento o no sulla vicenda popolare Etruria. Faccio notare, perché così do tutto il quadro anche cronologico, che il padre della Boschi diventa vicepresidente di Popolare Etruria più o meno in coincidenza con la sua nomina ministro e resta gli ultimi 6 mesi. Ecco perché dal punto di vista delle indagini il ruolo del padre della Boschi come vicepresidente non è ritenuto così rilevante, perché ha tenuto, cioè è stato negli ultimi 6 mesi di vita della banca, perché poi, come ricorderete, a fine 2015 arriva il crack con il rischio bail-in e quant'altro, e anche la gestione, diciamo, forse nessuno aveva capito bene cosa volesse dire bail-in dal 1 gennaio 2016. Però la Boschi in Parlamento: io come ministro sono sempre stata dalla parte delle istituzioni, non ho mai favorito la mia famiglia, non ho mai favorito i miei amici. Non c'è dunque conflitto di interessi, non c'è dunque alcun favoritismo, non c'è alcuna corsia preferenziale. Chi ha sbagliato paga e pagherà. Non ho tutelato la mia famiglia, questo governo ha tutelato le istituzioni. Oh, questo l'audio. Sara Monaci, buonasera a te, si apre il microfono della Monaci per favore. Allora, io prima qualcuno mi ha detto: ah, lei sta cercando di spaccare il capello in quattro. No, perché qui, al di là dell'opinione politica e dell'opportunità e del fatto che uno possa chiedere in democrazia le dimissioni di un ministro, ne abbiamo visto 1000 volte, ci sono stati sottosegretari, ministri che si sono dimessi nel passato per vicende, lì c'è anche una valutazione personale, o il partito che dice: guarda, pur non essendo tu, non avendo commesso nessun reato, forse è il caso che tu faccia un passo a lato, un passo indietro. L'abbiamo visto nel passato in varie occasioni. Queste sono valutazioni di carattere politico. Perché è importante però entrare nella materia e nel testo? Perché la differenza che si sta ponendo è tra un ministro che, preoccupato del suo collegio, come dice elettorale, come dice Vegas, chiede informazioni sulla banca che presta i soldi a molte imprese. Tra l'altro qualcuno mi scrive: ma insomma, se era preoccupata per l'azienda Orofe vuol dire che non aveva capito nulla della situazione reale della Popolare dell'Etruria, perché se tu avessi capito che era una banca che stava per fallire non ti preoccupi certo dell'azienda Orofe, ma di tutti i risparmiatori correntisti dell'Etruria. E quindi quello è normale, oppure l'idea di fare pressioni. Sara, non è un dettaglio, cioè, chiedere un'informazione o fare una pressione dal punto di vista dell'accertamento fattuale, ripeto, disgiunto dalla valutazione politica che farà il PD al suo interno, se la Boschi rappresenti o no un problema in campagna elettorale, se e le accuse che le fanno le opposizioni. Ma sì, nel senso che però la vicenda ormai a questo punto è inutile negarsela, è squisitamente politica, perché dal punto di vista dell'inchiesta credo che stia emergendo varie cose e la figura di Boschi a questo punto è marginale. Ha fatto pressione o si è interessata? Questioni quasi a questo punto direi semantiche, oppure di come Vegas possa averla vissuta. Lei sostiene di non aver fatto pressioni dicendo, se non ricordo male ora in quell'audio completo, di non essersi interessata. Ora, essersi interessata quando parlo in Parlamento vuol dire aver fatto pressioni o aver legittimamente domandato qual era lo stato dell'arte? Non lo sappiamo. Vegas ritiene di non aver subito pressioni. Poi, se vogliamo parlare se esista o meno un conflitto di interesse, questo, come posso dire, possiamo anche commentarlo che alle origini ci può essere più che conflitto di interesse, proprio quasi una questione estetica, perché non neghiamoci che il vicepresidente Boschi entra come vicepresidente proprio per l'appunto, inutile negarselo, dentro una valutazione un po' paesana che fu fatta ad Arezzo proprio perché la figlia era ministra. Sì, lui entra un po' prima del governo. No, lui era stato consigliere, ecco. Lui era stato consigliere dopo il 2010, anche il motivo per cui, come aveva detto il PM Rossi, non è entrato nell'inchiesta, diciamo, non c'è stato un rinvio a giudizio, una richiesta di rinvio a giudizio per lui sulle questioni di bancarotta fraudolenta, perché sono state prese al momento in considerazione le distrazioni finanziarie dal 2008 al 2010. Poi nell'ultima fase, negli ultimi 6 mesi, fu fatto vicepresidente, probabilmente proprio perché si riteneva che allora avesse un canale privilegiato con il governo avendo una figlia ministra. Fu una valutazione giusta o scorretta? Ovviamente dal punto di vista del politicamente corretto, diciamo, una valutazione assolutamente ma voglio dire, la valutazione politica, però è politica. La leggiamo, l'ascoltiamo sul se la Boschi o meno, se la vicenda Etruria e che danno abbia generato nella percezione del governo Renzi e nella valutazione poi politica degli elettori sul governo Renzi. Abbiamo letto tantissimi articoli, c'è chi ritiene che sia stata una zavorra che abbia inimicato il governo Renzi, lo abbia reso più vicino alle banche anche di quanto non sia mai stato un governo che protegge le banche e i banchieri, e abbiamo letto anche il contrario. Queste sono valutazioni di carattere politico, ripeto, non c'è nulla di male, l'opportunità, se a questo punto in una campagna elettorale che sta iniziando, perché si voterà a marzo, la Boschi rappresenti un asset o una liability, per dirla alla Kissinger, cioè un punto di forza, un punto di debolezza per la campagna del PD, questa è una valutazione su cui ognuno esprime il suo punto di vista. Sì, ma voglio dire, nessuno sta entrando nel merito, perché chi la sta difendendo è Orfini e quelli che noi chiamiamo renziani. Quelli che la stanno attaccando sono quelli che in campagna elettorale li troveremo dall'altra parte. Quindi è chiaro che in questo momento, nella commissione d'inchiesta sulle banche, non stiamo facendo una valutazione di ciò che veramente è avvenuto. Stiamo utilizzando delle parole estrapolate anche un po' così a caso, forzandole un po' dalle dichiarazioni di Vegas, per dargli un valore politico da usare in campagna elettorale. Non ha nulla a che vedere con un approfondimento su ciò che è avvenuto nella vicenda Etruria. Sì, anche perché, ripeto, non ho visto nessun commento sul fatto che Vegas dica: Boschi mi ha chiesto informazioni, ma io non potevo sapere nulla né fare valutazioni su quella vicenda, perché in caso di aggregazioni è la Banca d'Italia il tuo referente, esatto, non la Consob. E il fatto appunto che lei si preoccupi degli orafi della provincia di Arezzo con una banca così ci sta tutto, ci mancherebbe, con una banca così disastrata, la prima riflessione che farei io: ma come mai non hai capito a quel punto che la banca è messa così male? Forse non l'hai capito veramente, non lo so, ma è chiaro che il tema è tutto di carattere politico. Grazie intanto a Sara Monaci, anzi resta con noi ancora un minuto, perché invece ci sono altri interventi della Consob su Banca d'Italia e in generale. Infatti questo volevo dire, che secondo me la parte più interessante, Boschi o non Boschi, poi è quella, insomma, quello che ci sta dicendo Vegas, che da Banca d'Italia non ha avuto sufficienti informazioni per poter eventualmente fermare le obbligazioni subordinate. A me, dal punto di vista dell'inchiesta, mi sembra molto più rilevante questo. E infatti questo, ascolteremo proprio quello che ha detto Vegas sulla vicenda che riguarda anche la Cari Ferrara, perché le banche erano 4, Popolare, Etruria, Cari Ferrara, Cari Marche e Ferrara Marche, adesso, Chieti. E Chieti, eccola che mi mancava, Chieti, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, vedo che alcuni ascoltatori fanno notare: sì, però il ministro Lupi si dimise per l'orologio del figlio, l'allora ministro Guidi si dimise per quelle intercettazioni. Ma erano coinvolti nell'inchiesta. Erano coinvolti però nell'inchiesta. Qui si sta parlando di una questione di conflitto di interesse. Casomai è completamente diverso, mi dispiace. Poi c'è qualcuno che mi dice: lei si sta arrampicando sugli specchi. Vabbè, mi sto arrampicando sugli specchi. Se uno non vuol capire, non capisci. Possiamo restare nel contenuto? Io sono d'accordo con te, Sara, che è più grave quello, però chiaramente è passato in cavalleria, quello che la Consob, per voce del vice direttore generale Giuseppe D'Agostino, ha detto riguardo a Cari Ferrara e alla collaborazione con Banca d'Italia. Li ascoltiamo tutti e due questi passaggi. Dalla documentazione trasmessa dalla Procura di Ferrara, e qui c'è un flusso di documenti tra maggio e settembre, da ultimo 2017, è emerso che già a partire dal 2010 la cassa di risparmio di Ferrara aveva consapevolezza di rilevanti elementi critici segnalati dalla Banca d'Italia che riguardavano la sua situazione patrimoniale e gestionale, nonché il profilo di rischio delle proprie azioni. Tali informazioni non hanno avuto evidenza nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale né sull'informativa comunque resa al pubblico. Nella misura in cui tre di queste quattro banche non sono oggetto, non hanno strumenti finanziari quotati, quindi non sono deputate a informare il mercato stesso, il grande pubblico, nel continuo, ergo assume importanza assoluta, rilevante, la comunicazione che la banca fa ai propri clienti circa la rischiosità, altrimenti non derivabile. Quindi questo è un punto. I meccanismi possono sempre migliorare, nel senso che negli ultimi certamente tre anni si sono fatti passi da giganti nella collaborazione con Banca Italia, perché le due culture si sono molto affinate nel senso di comprendere i reciproci obiettivi, reciproche funzioni. Aggiungo io, negli ultimi tre anni, dopo i crack bancari che abbiamo avuto, comunicano meglio. Dopo il GR24 il commento di Sara Monaci, e poi passiamo anche alla vicenda Alcoa oltre che alla borsa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Slow it down 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per concludere con Sara Monaci, per carità, siamo uomini di mondo, ci sono ascoltatori che mi dicono lei si sta arrampicando sugli specchi, schiavo del governo, ha paura di Renzi, cos'altro leggo, le continua a leccare quella parte lì al governo, se Renzi vince le elezioni a lei è assicurato un posto importante, tutto quello che volete. Poi ci sono altri ascoltatori che dicono, ma scusatemi, se Vegas non è competente, che pressione poteva fare la Boschi? Altri mi scrivono di nuovo, ma mi sembra una cosa normale, o il fatto che si fosse interessata al territorio. Se la Boschi sapeva che Vegas non poteva fare nulla, significa che effettivamente stavano facendo due chiacchiere da bar. Altri fanno notare, però è strano che prenda un treno, venga a Milano solo per incontrare, perché non sappiamo se è venuta lì solo per incontrare Vegas ha detto è venuta, le ho fatto vedere la Consob e poi è tornata a Roma. Effettivamente né io né Vegas sappiamo quelli che erano gli appuntamenti della giornata del ministro Boschi. Abbiamo fatto dell'allora ministro Boschi, fatto ascoltare la sua audizione in Parlamento, in cui lei non dice mai non mi sono interessata. Poi, e la chiudo, è chiaro che, come spiegava Sara Monaci, tutta l'attenzione è sullo scontro politico. Adesso invece vorrei il tuo commento, Sara, su una cosa ben più pesante che ha detto la Consob, ammettendo che le comunicazioni con Banca d'Italia facevano acqua da tutti i pori. Però su questo, la valutazione poi di carattere politico, non si tratta di dare ragione alla Boschi o dare torto alla Boschi, si tratta di capire l'opportunità della vicenda, l'impatto che avrà in una campagna elettorale, dopo l'impatto innegabile e negativo che l'intera vicenda ha avuto per il PD e per il governo Renzi, l'intera vicenda della Popolare dell'Etruria, non di tutte le quattro banche in generale, e quindi l'opportunità o meno della candidatura, l'opportunità del collegio, l'opportunità di questo, il fatto che le opposizioni tutte insorgano e ne chiedono le dimissioni, ma non c'entra nulla con il contenuto dell'audizione. Altri mi scrivono la Boschi non ha fatto pressione, ha sbagliato l'uomo. Ho capito, ma Vegas ha detto io non ho ricevuto pressioni su questo, solo una richiesta di informazioni. Dopodiché Sara Monaci, c'è questo passaggio che nessuno cita, in cui la Consob riconosce che con la Banca d'Italia si comunica male, è migliorato un po' negli ultimi tre anni. Abbiamo sentito prima il vice direttore generale Giuseppe D'Agostino. Sì, c'è questo problema, è emerso proprio anche con chiarezza oggi parlando di Cari Ferrara, ma in Etruria è stato ancora più drammatico, perché questa presunta mancata informazione fra i due organi di vigilanza ha comportato poi l'autorizzazione alle obbligazioni subordinate, che ricordo sono state l'inizio di una serie di perdite da parte di famiglie, e poi c'è anche per questo un'inchiesta per truffa aggravata. Quindi voglio dire, qui stiamo parlando di una cosa piuttosto grave, cioè due organi di vigilanza che non soltanto in questi giorni hanno fatto emergere in qualche modo delle incaute valutazioni rispetto a quello che era lo stato dell'arte delle banche negli ultimi anni, ma che peraltro si passavano male, malvolentieri o con delle lacune le informazioni, perché poi lo ricordo, tutto si svolge su una questione un po' sottile, perché Consob autorizza i prodotti finanziari, quindi bond e le varie operazioni, per questo parliamo eventualmente poi di falso in prospetto, cioè il prospetto è quello che riguarda le operazioni straordinarie, mentre Banca Italia valuta la solidità patrimoniale. Quindi Consob autorizza le obbligazioni, però deve avere contezza di quale sia lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale glielo deve dare Banca Italia, ma Banca Italia può collaborare, ma non necessariamente svelare tutti i documenti delle sue ispezioni. Quindi in questo passaggio lo ricordo che Banca Italia e Consob, e non è la prima giornata dentro la commissione, si stanno in qualche modo rimpallando la responsabilità, dicendo: io l'ho detto, no tu non me l'hai detto, io non l'ho capito bene, forse me lo potevi dire meglio. In questi passaggi, lo ricordo, sono state però autorizzate delle obbligazioni che forse ci potevamo risparmiare nel 2013. No, che si potevano risparmiare i risparmiatori, certo, soprattutto, per usare un gioco di parole. Ecco perché è grave, a mio avviso, ma non sto distogliendo l'attenzione. È 20 minuti che parliamo della Boschi, di Consob, le dichiarazioni di Vegas sulla Boschi. Lo dico a alcuni ascoltatori, ma è anche importante restare seri e capire che forse la critica più grossa, la missione più grossa è di questa incomunicabilità, per cui la Consob autorizzava i prodotti ai risparmiatori senza aver avuto, secondo la Consob, informazioni corrette o complete, non corrette, dalla Banca d'Italia. Questa è una roba che non si può sentire, oltre al resto. Poi, lei continua a difendere la Boschi, ma mi spiegate dove cavolo ho difeso la Boschi nell'ultima mezz'ora? Parlando dell'opportunità politica, abbiamo anche detto che insomma è innegabile che dal punto di vista politico la vicenda Etruria e il ruolo della Boschi abbia creato solo ed esclusivamente un danno al PD. Oh, ma più chiaro di così cosa dobbiamo dire? Dopodiché sarà il PD a decidere cosa fare, chi candidare, in quali collegi. L'opposizione chiede le dimissioni. Lo fa sempre l'opposizione, no, in questi casi. Abbiamo detto anche di più, Sebastiano, che probabilmente è stata inopportuna proprio la nomina di vicepresidente di Boschi, ma questo, mentre era ministra, quindi più di questo. Questo non però c'è, poi... inopportuna non vuol dire illegale, ma sicuramente esatto. Inopportuna. E adesso penso che qualcuno diciamo, su questo si morda le labbra, perché evidentemente se quella mossa era stata fatta per vedere se potevano avere i canali privilegiati, è successo l'esatto contrario, cioè il fatto che il padre fosse per 6 mesi vicepresidente dell'Etruria ha creato un danno di immagine reputazionale e d'opinione pubblica al PD, altro che vantaggi da quel punto di vista. Quindi chi ha fatto quel calcolo lì ha sbagliato, non so chi l'abbia fatto, ma ha sicuramente sbagliato. Grazie a Sara Monaci, andiamo sulla borsa. Borse oggi deboli per quello che riguarda Parigi, meno 0,78%, per quello che riguarda invece Milano, meno 0,93%, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Londra meno 0,65%, Dow Jones invariato, e quindi l'America è invariata su questo. I titoli oggi, per quello che riguarda i titoli di maggiore capitalizzazione, non bene le banche: Intesa San Paolo meno 2,20%, BPER meno 2%, poi Recordati invece perde il 2%, Campari l'1,90% come Saipem, Enel meno 1,60% come UbiBanca, e il Banco BPM 1,5% il calo di Telecom Italia. Mediolanum bene più 1,40%, IUX Net-a-Porter più 1%, Fineco più 0,60% come Luxottica e Generali. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Rapidamente, oggi non mi sembrano tantissimi gli spunti. Commenterei Telecom, dopo appunto il CDA, e anche Mediaset. Sì, per entrambi è una seduta poi in conclusione negativa. Per quanto riguarda Telecom, nonostante una buona partenza questa mattina di chi interpretava gli incontri avvenuti con il governo nella persona del ministro Calenda e con le autorità delle comunicazioni e dell'antitrust sul tema della rete, poi il titolo è stato un po' trascinato nel pomeriggio al ribasso, ha chiuso a meno 1,5. Sulla rete rimane comunque l'incertezza, nonostante questo iter che si sia costruito, che è partito fino al mese di febbraio tra governo e azienda per trovare una soluzione alla valorizzazione di questo asset centrale per Telecom, ma resta l'incertezza su quale sarà la soluzione trovata, scorporo, quotazione oppure altre formule. Lo stesso vale per Mediaset. Domani c'è un'assemblea degli azionisti di natura tecnica, cioè chiamata a modificare uno statuto per le norme, lo statuto per le norme della nomina del Consiglio di amministrazione, però l'attesa era è legata alle indiscrezioni riportate proprio da Sole 24 Ore che l'azionista Vivendi non si presenterà, un segnale che sembra essere distensivo in funzione delle trattative con Mediaset e Fininvest e Vivendi proprio sul tema di Premium. Ciononostante, il titolo nel pomeriggio ha perso ugualmente l'1% dopo aver guadagnato questa mattina. Ancora per quello che riguarda invece i migliori e peggiori della seduta, segnalo Xprivia più 10,40, Keyyar Energy più 7,5, Eurotech più 5,50, Tiscali più 4,40%, il fronte opposto Molmed meno 6,40, Prima Industria meno 4,90, RWE meno 4,70%. Grazie anche ad Andrea Fontana. Andiamo dopo il traffico invece a una buona vicenda, la vicenda dell'Alcoa che si trascina da 4 anni sui 420 impiegati diretti e i 350 degli appalti. Stiamo parlando di Sulcis, penso l'area dal punto di vista economico più depressa o comunque agli ultimi posti dell'intero paese, Sulcis sardo. Vicenda però positiva perché arriverà un nuovo proprietario e entro il 15 febbraio sarà ceduto lo stabilimento di Alcoa di Portovesme alla svizzera Sider Alloys. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti, dicevo, dopo 4 anni di limbo e grandissima incertezza si dovrebbe chiudere a febbraio in positivo la vicenda del Sulcis, o meglio dello stabilimento Alcoa nel Sulcis, che produce alluminio. Tra l'altro l'Italia è il secondo consumatore di alluminio in Europa ed è il primo produttore di alluminio ottenuto dal riciclo, 25.000 gli addetti italiani e 20.000 le aziende, con un giro d'affari di 11 miliardi. Nel caso specifico, l'Alcoa, gruppo statunitense, terzo produttore al mondo di alluminio, presente in 31 paesi, e ricorderete, decide di chiudere lo stabilimento di Portovesme. All'origine della decisione c'è la multa da 300 milioni di euro inflitta dalla Commissione Europea, che dichiara le tariffe preferenziali riconosciute alle multinazionali quali aiuti di Stato illegittimi. Erano tariffe energetiche che il governo allora aveva concesso all'Alcoa. L'Alcoa non ha più queste agevolazioni e dice: chiudo Portovesme, tutti gli operai finiscono in cassa integrazione e 2 anni dopo in mobilità. Poi arriva la proposta della Svizzera Glencore, chiede energia a 25 euro a megawattora per 10 anni in regime di super interrompibilità, viene accontentata, ma le richieste non finiscono e non se ne fa nulla. E invece dovrebbe essere fatta con la Svizzera Sider Alloys. Fabrizio Bentivogli, segretario generale della FIM CISL, che ha partecipato oggi al tavolo con il ministro Calenda proprio sull'Alcoa di Portovesme. Buonasera. Sì, Marco Bentivogli. Marco Bentivogli, sì. Mi scusi. L'ho chiamato Fabrizio, mi scusi. Marco Bentivogli. Segretario, lei ha twittato che il 15 febbraio è tutto chiuso, quindi avete avuto garanzie totali. E di che tipo? Dagli svizzeri? Chiaramente non penso che si sia offeso il segretario, è semplicemente caduto. Leggo nel frattempo anche altre dichiarazioni. Il ministro Calenda ha twittato: il 22 sarò a Portovesme e ha detto a un operaio del Sulcis: la pizza la porto io. Fa ripartire lo stabilimento di Alcoa, di Alcoa di Porto Vesme è una missione durissima, e in pochi ci hanno creduto. Questa è la prima dichiarazione dell'amministratore delegato di Sider Alloys, Giuseppe Mannina, dopo il tavolo che si è tenuto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. E Landini invece ha detto che il prossimo incontro su Alcoa si terrà l'11 gennaio e ha detto: prima di esultare meglio aspettare la fine della partita. Questo per quello che riguarda la posizione di Landini. Ecco, abbiamo di nuovo Bentivogli della FIM, buonasera di nuovo. Lei invece sembra più ottimista di Landini e anche più certo su quello che capiterà entro il 15 febbraio. Ma sì, perché io ho seguito questa vicenda sin dall'inizio, dal 2008, dagli episodi che lei accennava, la multa, ma non solo, c'era anche una scelta strategica di chiudere gli smelter, cioè non la produzione da rottame d'alluminio, ma la produzione primaria di alluminio, per cui c'era un concorso di situazioni che hanno portato Alcoa a disimpegnarsi dal nostro paese. Il nostro paese ha chiuso tutti i primari. Noi nel 2012 siamo diventati un paese che non produceva più con smelter, cioè con produzione primaria, neanche un grammo di alluminio, e questo è stato un problema anche perché noi abbiamo sui metalli, sull'acciaio e sull'alluminio una necessità di rafforzare la nostra sovranità industriale, essendo già poveri di materie prime. Ma che cosa la rende così ottimista? Perché appunto Landini dice: aspettiamo di vedere la trattativa sindacale che comincia l'11 gennaio prima di esultare. E invece lei ha detto no, insomma. Ma non è solo un fatto di carattere, alcuni colleghi vedono, cioè, il bicchiere sempre mezzo vuoto, però io che non ho mai mancato un momento di iniziativa, di trattativa con Alcoa, l'ho seguita veramente in ogni istante. Ci sono stati dei momenti in cui non c'era veramente niente da fare, i lavoratori hanno continuato a lottare, noi abbiamo continuato a insistere perché si trovasse un nuovo investitore, e devo dire soprattutto una parte del sindacato che ha continuato a crederci, e la concretezza del ministro Calenda, che il decreto sugli energivori che adesso è in Parlamento è un elemento positivo che aiuta l'investimento senza drenare le risorse che si drenavano una volta in termini di spesa pubblica e di aiuti di Stato per poter produrre l'alluminio, che come sappiamo è una delle produzioni più energivore che esiste. E oggi c'è un investitore vero che ha presentato un business plan, che sta elaborando un piano industriale, la società passerà a Invitalia, e da Invitalia passerà, proprio tecnicamente questo accadrà, passerà a Sider Alloys. È un investitore che si è sempre occupato di commercio siderurgico, per cui ha comunque delle esperienze nel settore siderurgico, e questo per noi è un elemento di garanzia. Ecco. Allora, io sono contento, perché se lei, che rappresenta uno dei sindacati più importanti in questa vicenda, la FIM-CISL, è tra virgolette tranquillo e soddisfatto, vuol dire insomma che gli elementi ci sono. Non vedo perché dovrebbe. Cioè, sicuramente non sta facendo il gioco e aiutando la posizione degli svizzeri, ma immagino quella dei lavoratori. Io devo però a Marco Bentivogli fornire anche tutta la mia solidarietà, per quel poco che le vale, perché le è stata oggi assegnata la scorta per minacce di morte. E quindi io dico, va ben tutto, qua riceviamo insulti, critiche, anche offese, per carità. Fa parte anche del dibattito, del libero scambio delle idee, in cui questa radio è maestra di tutte le idee, contrariamente a chi pensa che dobbiamo fare solo le idee che piacciono a alcuni o solo le idee che piacciono ad altri. Però insomma è inaccettabile, e lo dico perché voglio che lo sappiano anche gli ascoltatori, che il segretario di un sindacato come la FIM-CIS venga messo sotto scorta, perché di nuovo sembra di tornare ad altri anni. Bentivogli, mi dispiace per lei, questo è frutto anche di un dibattito che va oltre il dibattito politico e sul rancore. Grazie ancora e a tutta la mia solidarietà. Vedo che anche gli ascoltatori su questo stanno scrivendo. Se vuol dimmelo, le minacce a questo punto erano diventate veramente insostenibili e anche pericolose? Ma questo è stato reputato dalle forze dell'ordine, io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, io credo che non siano fare modernizzare il paese, il sindacato, la politica, non può essere una messa cantata, bisogna avere il coraggio di dire cose che spesso possono essere impopolari, ecco, è chiaro che c'è stata in questi ultimi anni un'idea di sindacato iperideologico che sembrava quasi uscito dalla macchina del tempo, ma era totalmente innocuo. Chi come noi ha continuato a fare accordi impegnativi che hanno salvato produzione, ha cancellato la paura dal volto dei lavoratori, per tanti accordi difensivi, investimenti, è stato spesso oggetto di minacce, di morte, di violenze, di aggressioni. L'accusa di collaborazionismo, che è un vecchio tema per chi conosce la storia di questo paese negli ultimi 30-40 anni, che ahimè ha prodotto anche situazioni tragiche e drammatiche. Di nuovo la nostra solidarietà al segretario della FIM CISL, Marco Bentivogli. Chiaramente il tema su cui è intervenuto, quello più importante, riguarda anche la soluzione trovata per Porto Vesme e stabilimento Alcoa di Porto Vesme. È veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni a tutti voi, anche a chi non ha smesso di insultare dall'inizio del programma alla fine, dandomi del lecchino di Renzi, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.